fly. Facciamo finta di partire intanto che arriva anche Andrea Brugiolo e spara un altro po' di gente. Intanto vi ringrazio tutti per essere venuti stasera con questo tempo da lupi, veramente spesso. E anche per l'argomento che è abbastanza generico e un po' diverso da quelli delle altre serate. Non si parla di compilazione, non si parla di linguaggi di programmazione, non si parla di installazione di Linux, si parla... Buonasera. Oi. Di un argomento un po' più generale che sono le reti estese in tecnologia wireless. Con reti estese non parliamo delle reti domestiche, ma le reti tra punti collegati a chilometri di distanza. Perché ho proposto questo incontro? Tanto per spiegare un pochettino. Perché sanno delle autorità. Sì, esatto. Ho insistito perché ci tenevo molto. Intanto per spiegare un attimo come funziona la tecnologia wireless sui conti radio, si sente spesso parlare di tecnologia Hyper-LAN, WiMAX, è di moda. Guardiamo un attimo che cosa significa questa tecnologia, facciamoci un'idea se a casa nostra vogliamo avere un collegamento di questo tipo. E sicuramente ci permette anche di capire cosa succede quando spedisco la posta elettronica. Idea di massima, il mio impulso elettrico che faccio partire dalla mia scheda di rete, qual è il giro che deve fare? E soprattutto il povero amministratore di rete come risolvergli le castagne dal fuoco. No, fermati un attimo. Ho trovato le rocce. La fortuna non ha questa capacità. Riassumendo un po' di cose, allora, cos'è una WAN? Wide Area Network, ovvero una rete estesa. Sono le reti fondamentalmente dei provider, quindi reti molto grandi dove ci sono molti edifici, molti uffici, molte famiglie connesse. L'esempio tipico è, immaginate, che ho attaccato là sotto, varie città connesse, in ogni città ci saranno più utenti, più edifici, più clienti connessi. Quando si parla di WAN, si parla sia di collegamenti in fibra ottica, sia in collegamenti in cavo normale. Non dipende dalla tecnologia di collegamento, dipende semplicemente dal fatto che ci sono una rete estesa, città, province, comuni, non uffici, giusto per dare un'idea. Internet è una WAN? Le reti dei singoli provider sono delle WAN, le varie WAN diventano una grande internet, la rete delle reti per capirsi. Sì, dimenticavo. Domande, curiosità, qualcuno che ha esperienze, buttatele dentro perché io non sono un insegnante, non sono certificato, non... quindi qualsiasi contributo ben venga. Una domanda. Ecco. La rete, la WAN più elementare, sì, può avere un nodo solo? No, perché è una rete, nodo solo, perché è una rete estesa, quindi la casa cablata o l'ufficio cablato non è una WAN. No, una città con un unico... Okay, facciamo un'ipotesi. Un comune decide di fornire la connettività, grazie, a banda larga a tutti i suoi cittadini. Un esempio. Cosa significa? Significa che dovrà prevedere il collegamento di varie case, vari uffici, varie industrie su chilometri quadrati. Sì. Quella può essere intesa come WAN. Ah, esatto. No, la mia domanda è più tecnica, non geografica. Un nodo solo o necessariamente ci deve essere più nodi? Qui mi piacerebbe sentire un amministratore di rete, perché... No, della macchina. Sì, io vorrei capire se lui intende una macchina. No, non ha senso, non fa neanche una rete, una macchina. Insomma, le macchine che sono gli utenti. Ok. E la macchina del provider, chiamiamola così, la quale serve gli utenti. Nello stesso ufficio? O nello nella stessa area, che no, non è necessariamente un ufficio. No. Quando parliamo di aree estese, sì, intendiamo superfici ampie, sì, non lo stesso ufficio, per capirci. Sì. È proprio un'idea anche geografica, proprio, sì, collegata a un certo tipo. Quindi sono... Chiaro? Sì, sì. Per sapere come i telefonini, insomma. No, parli con un tecnico certificato Cisco, amministratore di rete, ti dice una cosa. Non faccio una parola, dice un'altra. I telefonini, quando sono pochi, hanno delle cellule molto larghe. Sì, e esatto, quando si coprono, fanno cellule. Sono costretti a fare più bene. Esatto. L'idea è più o meno la stessa. Bene. Adesso aggiungiamo un concetto, le reti wireless. Allora, le reti wireless, come dice la parola dall'inglese, sono senza fili. Abbiamo i collegamenti a infrarossi, le porte dei PC per capirci, che su alcuni PC c'erano. Collegamenti laser nella banda dell'infrarosso, oppure i collegamenti con onde radio. Giustamente l'immagine sborda. Qui io ho riportato un attimo un'idea di quali sono le frequenze su cui stiamo parlando. Queste sono le tecnologie che si usano. Il Bluetooth, per esempio, rientra nell'ambito delle onde radio. Collegamenti infrarossi, abbiamo detto, sono quelli ad esempio delle porte e sono per brevi distanze. Collegamenti laser nella banda dell'IR. Parlavo prima con uno di voi. Ci sono dei sistemi che permettono il collegamento di uffici a diversi chilometri di distanza con due sistemi di puntamento laser. Si arriva fino ai, c'erano bande di 50 megabit o qualcosa del genere. Il problema è che lavorando nell'infrarosso piove, neve, nebbia, alberi in mezzo, foglie, scegliete voi qualsiasi cosa climatica aggiungerci in mezzo, funziona male, molto male. Tra l'altro costa una cifra. Collegamento con onde radio, che è il tema della serata, è quella che sembra funzionare meglio. Ho scritto che è relativamente indipendente dalle condizioni meteo, perché dopo vi racconterò, insomma, ci sono dei perché. Fondamentalmente le frequenze su cui lavoriamo con le frequenze radio sono intorno ai 5 GHz, per capirci. È l'equivalente quando uno acquista le pennine con sì, quelle, ecco, quelle tipo 3, TIN, che fanno pubblicità adesso per televisione. Quelle si appoggiano sulla tecnologia mobile dei telefoni. Ah. Diciamo che è sempre wireless, solo, e quindi le frequenze sono sempre in quel range. Non radio. Che ci prendiamo sono sempre radio comunque. Esatto, vedremo che nell'ambito radio sono delle frequenze preferibilmente usate per la fonia, per il Bluetooth, altre che sono preferibilmente usate per il trasferimento dati, per il VoIP, e dico in questo modo schifato perché onde radio e VoIP non funzionano tanto bene. VoIP è la voce over IP, per capirci. Comunque sì, è la stessa grande famiglia. Tra l'altro, e questo qui lo aggiungo, se voi avete un dispositivo Bluetooth e avete un access point wireless, tendenzialmente si disturbano, sì, perché le frequenze sono le stesse. Adesso non so se avete avuto esperienza, io a casa è un macello. No, va bene. Quello spettro lì, il radar dove si colloca? Qua. Questa è una domanda. Chi li ha, ovviamente. I radar, il Monte Venda ha un radar militare. Lo so benissimo. Io lo so benissimo, perché i miei impianti radio impazziscono ogni volta. E in che frequenza sono, più o meno? Allora, sinceramente non mi ricordo a che frequenza funzionano i radar militari. Io so solo che nei dispositivi di collegamento con onde radio, una delle impostazioni che hanno costretto a fare i fabbricanti, una delle opzioni di cui sono dotati tutti i sistemi per la trasmissione di dati via onde radio, è quello di interrompere o sospendere la trasmissione di segnale quando arriva la scansione dei radar militari, e di scegliere una frequenza meno disturbata o comunque che possa continuare a trasmettersi, perché è un problema sentito. Tra l'altro il Monte Venda copre tutta la zona qui della provincia di Padova, quindi se qualcuno deve fare il consulente, proporre a un'azienda, ma lo risolvo io il problema a costo zero, niente DSL, trasmissione dati tra capannoni, ricordatevi che ha dei limiti. Ecco, qui ho fatto proprio una cosa perché ci ho messo un po' di tempo anch'io a capire. Allora, le reti wireless. Abbiamo il Bluetooth che funziona a 2,4 GHz, che è anche la frequenza degli access point domestici, e funziona per la telefonia, l'abbiamo detto prima. Il wireless domestico, idem. Io ho messo anche gli standard, dopo le slide le trovate, sono scaricabili, vi darò l'indirizzo, quindi se volete copiare, modificare, fare, applicare. Abbiamo la tecnologia Hyper-LAN, che è quella più di moda, che funziona intorno ai 5 GHz, e il WiMAX che funziona tra 3,4 e 3,6 GHz, e però l'Unione Europea ci sta ancora mettendo mano, quindi insomma è un po' da capire cosa vogliono fare, anche perché hanno scoperto che la tecnologia radio non è proprio la panacea di tutti i mali. Io vi sto dando un po' di idee all'inizio così, perché quando mi sono trovato io ad affrontare sto lavoro sulle reti wireless non sapevo niente. Ho dovuto recuperare tutte queste informazioni perché servono, insomma. Allora, reti wireless, sempre nel caso qualcuno studi ingegneria delle telecomunicazioni o faccia il consulente per le aziende, deve sapere che le tecnologie radio, quindi la frequenza che abbiamo detto intorno ai 5 GHz, è quella più diffusa, che trovate Trivenet che vi vende connettività ad esempio, o altri provider, è molto limitata, cioè ha delle regole molto precise. Una di queste, che è quella più importante, è le emissioni elettromagnetiche. Quindi, a differenza dei cellulari, le emissioni che fanno queste tecnologie wireless per i dati sono molto limitate. Si parla di milliwatt di trasmissione di potenza. Quindi insomma, se vi beccate queste antenne, magari sono io che le sto installando, non venite a darmi fuoco, ma semplicemente sto rispettando, ci sono delle leggi ben precise, insomma. Milliwatt o watt? Dice che sono limitate a un watt. Dipende, sì, giustamente. Allora, la legge dice un watt. Fondamentalmente, dopo, per discorsi di elettronica, io lavorando sugli impianti e con l'interfaccia, setto in milliwatt. Sì, scusate. Sì, dopo va bene. Per paragone, se perché lo sai, un'antenna da cellulare, una BTU, quanto è la potenza trasmessa? Il problema non sono le antenne che trasmettono, ma sono i cellulari che cercano di attaccarsi. Perché i cellulari possono riuscire a trasmettere anche nell'ordine dei 2-3 watt. Infatti hanno fatto un esperimento, anzi abbiamo fatto un esperimento per un piano di localizzazione delle antenne sul territorio. Abbiamo preso una classe di studenti delle elementari, tutti con il loro bel cellulare, l'impianto... Gli elementari? Sì, ce l'hanno. Non sei aggiornato? No, mia figlia l'ha già fatta l'elementare, però il cellulare... Una classe di 20 ragazzi, ce n'erano 15 col cellulare, tanto per dire, no? E abbiamo fatto la misurazione. La diffusione, diciamo, la cella era a chilometri di distanza, quindi i cellulari prendevano male. Il campo, buonasera. Il campo che generavano tutti questi telefonini era dalle 15 alle 20 volte superiore rispetto a uno che abita sotto l'antenna, per capire. Quindi, anche per esempio, dire non mettiamo le antenne cellulari sopra le scuole è una stupidaggine, perché le emissioni sono causate dai cellulari, non tanto dalle antenne. Quindi se i cellulari prendono meno, emettono meno potenza e quindi di conseguenza il campo elettromagnetico è minore. Solo che spiegarlo, insomma, questo è difficile. Sì, perché forse però l'emissione di un singolo cellulare è puntuale, è spot, mentre quella antenna lì non ha senso. Certo, ma se tu sei sopra, ecco, la diffusione delle antenne è a cono. Sì. Se tu sei sotto, se sono sotto, se sono a 100 metri invece forse il compenso, il telefonino è proprio vicino al cervello, vero? Sì, ma emette meno potenza perché l'antenna è più vicina e quindi si aggancia prima. Si serve meno potenza per la collegare. Comunque resta che nell'uso del telefonino, magari lontano da bene non fa, sono sempre onde elettromagnetiche, quello è poco da sicuro. Dopo insomma c'è gente che mette un miliardo di access point in casa wireless perché deve prendere col portatile dappertutto, anche in bagno. Dopo non lamentiamoci se insomma ho un po' di mal di testa, non sto tanto bene. Sto benissimo io. Ecco, la foto in basso a destra io l'ho messa non tanto per simpatia. Per simpatia appunto, ma perché è una scena di vita vissuta. Perché installando un impianto wireless per coprire una ridente cittadina, il comitato di cittadini si è accorto della cosa e non l'ha presa molto bene, pensando che fossero antenne per cellulari. E il risultato è che siamo dovuti scappare con i furgoni di fretta e di furia. Vabbè, dopo è stato un po' di problemi per spiegare ai cittadini tutto quello che vi sto dicendo adesso, spiegargli che era per fornirgli internet a banda larga perché loro non ce l'avevano. E allora a malincuore hanno accettato. Però fare impianti di questo tipo anche queste problematiche. Sì, quindi per chi vuole internet dove non è coperto da Telecom e va dai provider wireless che si trovano in giro, sappia che ci sono impianti di questo tipo disseminati in tutto il territorio alla stregua dei telefonini. Giusto perché si sappia, insomma. Ecco. Adesso io qui ho pensato di fare una cosa abbastanza simpatica, perché sennò è difficile spiegare. Io ho preso un'azienda, una banca, adesso è di moda parlare di banche, quindi ne ho presa una apposta, che ha 7 filiali da collegare. E ho pensato che insieme magari